Benza, cititor de proză. Più bella è la giornata e sole. Ja venäjiso isu traagu toon. la pulla che la prosegica, a orea sustita che stivi chi muagana, i cardiam sacti pai o lo se la lacera, e la vostra, e la vostra, e la vostra biofila. Infinita, pion di mio cuore. una semplice canzone. Save her.